regina, il tuo poter sovrano, l'India non sol, ma tutto il mondo onora. Al fulgido seren degli occhi tuoi, ogni rara beltà cieli si inchina, e tu, bella reina, a sospirare, da banda al rio mortuo, e la serena il ciglio. Oddio, me l'adoro! Alcina, poi che alquanto disaccerba il suo buono un'alma amante, narrando i mali suoi, sappi che minestrale vibrò da queste or languide pupille il fare traporcino. Agricane, Rinaldo, Ferrausa, Cribante, Orlando e mille famose arme coronate in soglio. Esser tutti d'amor per queste nuove, io con la speme sola tutti allettai, ma per alcun d'amore io non senti le pene. Segno si al fine innocente signor, e del mio cuore prese vendetta. Meco di lui lieta godere e accordar la tua gioia.